desnuda che pende nel siero delle stanze. La cama è una barca alla deriva, entra il telefono e lo porta blank. Se quiero ir colmen contigo la langosta, no, muchas gracias, non me gusta. Perché? E sto esperando a una musica che me lleve hasta la playa. Al cinema sì, quasi quasi non so, mi prende più del cinema questo sound. Lo senti? Yeah, fantastico! No, non è che non mi piaceva di 6 da 100, ma la notte è piccola e mi sento un reggae dentro, yeah. Città.